Storie italiane. Il lupo e i 7 capretti. C'era una volta, vicino alla foresta oscura, mamma capra che viveva in una bella casetta con i suoi 7 capretti. Tempo fa c'era una competizione, la lotta tra le capre. Le capre della foresta partecipavano a questa competizione. Bulli ha di nuovo vinto la sfida sul ring! Forza Bulli! C'è qualcuno tra il pubblico che desidera sfidare il grande Bulli? Ed ecco la sfidante di oggi! La grande Lady Capra, la grande Marta! Fate il saluto! Uno, due, tre, combattete! Forza mamma! Dai, fagli vedere di cosa sei capace! Di questa sfida! Wow! Morto! Tutti i capretti si riunirono intorno a lei per abbracciarla. Mamma, sei fantastica, evviva! Un furbo lupo si nascose tra la folla e li osservava. Buoni quei capretti, gustosi da mangiare. Andiamo, piccoli. Devo andare al mercato a fare compere per il pranzo. Mamma capra si incamminò insieme ai suoi piccoli. Il lupo decise di seguirli per scoprire dove vivevano. Mentre camminava, mamma capra ebbe un dubbio e si voltò, ma non vide nessuno. Notò lungo la strada le impronte di un lupo. Questo è un lupo furbo. Oggi riceverai una bella lezione. Arrivate a casa, mamma capra disse ai suoi piccoli che andava a fare la spesa. Io esco e vado a fare la spesa. Non dovete aprire la porta a nessuno. E non dimenticate che un lupo cattivo è sempre in agguato. È nero, con le zampe grandi ed una voce profonda. Se qualcuno bussa, tenete la porta ben chiusa. Vado. Mi raccomando, fate i bravi. Ciao, mamma! Mamma capra uscì per andare al mercato. Nel frattempo il lupo si nascose dietro ad un albero. Non ti preoccupare, mamma capra. Vai pure al mercato. Io mangerò tranquillamente quei piccoli capretti. I loro corpicini andranno dritti dentro al mio stomaco. Il lupo, cercando di non dare troppo nell'occhio, si diresse verso la casa della mamma capra. Arrivata a destinazione, finse di essere la mamma capra. Aprite la porta! Sono tornata, bambini! I capretti insospettiti non fecero entrare il lupo cattivo. Aprite la porta! Aprite! Sono la mamma! Sono tornata dal mercato! Aprite, dai! I capretti si ricordarono delle raccomandazioni della mamma. Sappiamo chi sei! Sei il lupo! La mamma ha una voce molto dolce, non ha una voce brutta come la tua! Devi andare via! Noi non ti apriremo la porta! Il lupo bussò furiosamente alla porta. I capretti tremavano dalla paura e non aprirono la porta al lupo cattivo. Allora il lupo ebbe un lampo di genio. Si precipitò subito alla panetteria e comprò una grande torta ricca di buon miele. Sperava che la sua voce si addolcisse. Ah, ora posso parlare come la mamma capra. Il lupo cattivo si esercitò per imitare la voce della mamma capra. Sono tornata! Bambini, sono tornata! Si precipitò a casa dei 7 capretti e bussò alla loro porta. Aprite la porta! Poco fa vicino al fiume ho visto quel lupo cattivo che mangiava del pesce! I capretti si guardarono l'un l'altro, ma non aprirono la porta. Muovetevi, aprite la porta! Questa volta i capretti ebbero dei dubbi. La voce era dolce come quella della mamma e stavano per aprire la porta, quando la capretta più grande vide qualcosa di strano dalla fessura della porta. Aspetta! Non sei nostra madre! Lei non ha quelle brutte zampe nere! Vattene, lupo cattivo! E ancora una volta, a dispetto del suo duro lavoro, il lupo si trovò la porta chiusa a chiave e non poteva entrare. Il lupo cercò di entrare in casa attraverso la finestra che si trova vicino alla porta. Il lupo pian piano mise dei mattoni uno sull'altro per entrare in casa. Alla fine il lupo cattivo raggiunse il suo scopo e si affacciò alla finestra. Guarda, guarda che bei capretti, ora li mangerò uno ad uno! Ehi tu, lupo cattivo, pensi di essere furbo? Ma ora vedrai quello che ti faremo! I capretti lanciarono tanti oggetti contro il lupo. Il lupo prese un colpo in testa, perse i sensi e cadde a terra. Sulla testa del lupo spuntò un bernoccolo. Tutti i suoi tentativi fallirono. Così prese un grosso tronco d'albero e cominciò a battere sulla porta. Questa volta sono il lupo, non vostra madre! Vai via da qui! Adesso sfondo la porta e la vostra vita sarà totalmente mia! Tutti i capretti si misero davanti alla porta. Dopo 4-5 tentativi il tronco si spezzò, ma la porta rimase intatta. Dopo qualche attimo di riflessione, il lupo corse giù al mulino e comprò un sacco di farina. Infilò le zampe, così che divenne di un bel colore bianco. Anche questa volta il lupo si affrettò per tornare a casa dei capretti e bussò alla loro porta. Bambini, aprite la porta! Questa volta i capretti non lo riconobbero, ma non aprirono la porta. Oh, pensate che io sia il lupo? Sono la mamma ed ho portato dal mercato tanti bei regali per voi. Dai, aprite la porta! La voce sembrava uguale a quella della mamma. La piccola capretta si chinò per vedere attraverso la fessura. Le zampe sono di colore bianco. È la nostra mamma, apri la porta! I capretti rassicurati aprirono la porta. Una brutta scoperta! Un enorme lupo con una grande bocca e zanne affilate ringhiava ferocemente. Ah, ora voi entrerete nel mio stomaco! Non piangete, bocconcini miei! I capretti, in preda alla paura, si nascosero chi sotto il tavolo, altri sotto il letto. Un altro si nascose nell'armadio. Un altro si nascose nel forno. Un capretto si accovacciò in un barile e il più piccolo di tutti entrò in un pendolo. Caprettini, volete giocare a nascondino prima che vi mangi, vero? Uno ad uno, il lupo prese i capretti dai loro nascondigli. Il lupo cattivo li mangiò tutti in un sol boccone! L'unica a sfuggire era la capretta nera. Il lupo pensò di averli mangiati tutti e che non potevano essercene altri in casa. Questo sì che è un pasto meraviglioso. Il grande lupo cattivo uscì dalla casa molto soddisfatto. Nel frattempo, mamma capra rientrava a casa. Mamma capra rientrava dal mercato. Da lontano si accorse che la porta era socchiusa. Quello che temeva era accaduto. Stoviglie rotte, vestiti strappati, tutta la casa era in disordine e non c'erano più i capretti. Mamma capra prese una sedia ed iniziò a piangere disperata. Mentre piangeva, la porta del pendolo si spalancò ed uscì la capretta nera. Mamma capra prese in grembo la capretta e pianse. Oh mio Dio, che cosa è successo? Dove sono andati i tuoi fratellini? È stato terribile, mamma. Il lupo è arrivato e ha mangiato tutti i miei fratellini e sorelline. Ma io ho detto a tutti di non aprire la porta e di fare attenzione se si tratta del lupo oppure no. La capretta raccontò tutta la storia alla mamma e spiegò i trucchi utilizzati dal lupo cattivo. Non piangere, mia cara. Lupo, hai mangiato i miei piccoli bambini. Oggi finirà il regno del tuo terrore, lupo cattivo. Dai, andiamo subito a cercarlo. La mamma capra e la capretta lasciarono la casa. Mamma capra sentì un suono sibilante. Qualcuno russava profondamente. Era il lupo cattivo. La sua bella scorpacciata lo affaticò tanto da farla addormentare in un sonno profondo. Ad un tratto mamma capra ebbe un'idea. Mamma capra prese ago e filo e un paio di grandi forbici. Con questi rapidamente aprì lo stomaco del lupo. Come aveva sperato, il lupo vorace aveva inghiottito i capretti senza masticarli. La piccola capretta fece salti di gioia dopo aver visto i fratellini vivi. Ehi, stai tranquilla, altrimenti rischi di svegliare il lupo. Uno ad uno vennero fuori dalla pancia del lupo. Mamma! Muovetevi, veloci! Non fate rumore, andiamo via prima che si svegli. Infine tutti i capretti erano sani e salvi. Ok, adesso devo cucirlo. Aspetta, mamma, prendo delle pietre. Così, riempito lo stomaco del lupo con delle pietre, cucirono lo stomaco. Il lupo si svegliò ed aveva una grande sete e vide il suo enorme stomaco. Questi capretti sono molto pesanti da digerire. Ho una grande sete. Il lupo si diresse verso il fiume, con una grande difficoltà a camminare. Che pancia pesante che ho! Ma io ho una grande sete! Quando arrivò vicino al fiume per bere l'acqua, la sua pancia con il suo peso lo fece cadere in acqua. Mamma capra e i capretti arrivarono al fiume. Il lupo stava cercando di non annegare, ma con le pietre nello stomaco si accosciò e sprofondò. Tutti i bambini e la madre risero di lui. Il lupo cattivo morì ed i capretti ritornarono felici a casa con la mamma.